Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Filippo voleva dire una cosa su cosa hanno fatto e cosa hanno visto i genitori, mi sa, perché lo sa già. No, volevo dirgli a Simone che ho chiamato a casa e mio padre era di là alla linea, ma piangeva e non lo sentivo. Però volevo salutarlo perché non sono riuscito a parlargli né a lui né a mia mamma. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Prima dentro, piazza martello e andiamo. Si prende un po' la moto di Rossi, parte bene Franco Morbidelli, benissimo da dietro, affionda Jack Miller che potrebbe andare a girare in seconda posizione. Intanto 5 secondi di penalità per Lewis Hamilton. Sì, per la partenza, Carlo, perché lui era, l'ho visto che lo stavano investigando, lui non si era piazzato non nel punto giusto. Due violazioni, entrambe con 5 secondi di penalità, quindi al momento sono 10 secondi di penalità per Lewis Hamilton. La felicità, la gioia, la soddisfazione di Quartararo. Quartararo c'è e vince davanti a Mir, Aristo, Pietta, Suzuki, poi Morbidelli con Miller dietro davanti a Bagnaia, sesto. Yes mate, get in there. Yes. Bentrovati a tutti, 17.08, condensate in meno di un minuto le emozioni di questa domenica pomeriggio per quanto riguarda i motori. Poi ci sono tante altre emozioni da raccontare, quelle delle due ruote del ciclismo con il titolo mondiale di Alaphilippe e la delusione, almeno per quello che ritengo io, italiana, con Nibali e Caruso, che sono arrivati negli ultimi 20 chilometri con i protagonisti e di fatto sono spariti nel momento decisivo della gara a Imola. Poi c'è da raccontare quello che è successo e quello che succederà nel calcio. Ricordiamo il meglio alle 20.45 questa sera con Roma-Juventus, ma già tra una cinquantina di minuti seguiremo insieme Crotone-Milan e Napoli-Genoa. Tra poco vi do le formazioni ufficiali. Ieri sera ci siamo divertiti, 20 gol nelle prime 4 partite e siamo andati avanti anche oggi. 5 in Spezia-Sassuolo, un gol in Verona-Udinese. Insomma è una Serie A bella viva dal punto di vista delle marcature in questa fase iniziale del campionato. Vi do subito i contatti. 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta fino alle 19. Vi invito a prenotarvi già adesso. 349 238 6666, sms, whatsapp, anche vocali. Ciao Carlo. Ciao Giovanni, ciao a tutti. Allora, se sei d'accordo, partiamo dai motori, partiamo dalla Formula 1. C'è da raccontare un po' di cose e lo faremo poi anche per la MotoGP. Saluto Umberto Zappelloni, ciao direttore. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, parto dal podio. Valtteri Bottas che ha vinto, secondo successo stagionale, nono in carriera. Verstappen, poi Lewis Hamilton che ha pagato 10 secondi di penalità, quindi Perez, Ricciardo, sesto Leclerc. L'altra Ferrari, quella di Vettel, doppiata, è arrivata al 13° posto nella classifica mondiale. Hamilton conduce con 205 punti, 44 in più di Valtteri Bottas. Allora io partirei da Lewis Hamilton, se siete d'accordo, che mi sembra stia un po' pasticciando. Oggi ha preso 2 penalità da 5 secondi, quindi 10 in tutto per le prove dello start, per il posizionamento della sua vettura sulla griglia. Aveva fatto un po' confusione anche a Monza, per quanto ha aiutato in negativo dal team. In quel caso ricorderete l'ingresso in pit lane a pit lane chiusa. Io non ho capito se si sta un po' distraendo, direttore. Si sta un po' distraendo e poi è arrivato in un momento in cui non gliene passa una liscia, insomma, perché io credo che 10 secondi di penalità per quello che ha fatto oggi sono fine eccessivi. Quest'anno a Hamilton non gliene viene veramente più passata liscia una, mentre negli anni scorsi lui poteva decidere di entrare ai box e cambiare idea, rientrare tagliando sul cordolo e nessuno gli diceva niente. Adesso viene punito per qualsiasi cosa. Perché questo cambio? Forse perché si è resi conto che se Hamilton vince tutte le domeniche il mondiale finisce troppo in fretta, perché lui sta dominando, lui sta forse andando un po' oltre, non vorrei che cominciasse a dare fastidio con tutte le sue campagne. Tra l'altro oggi hanno vietato di indossare delle magliette su fare tutte quando si sale sul podio, un riferimento chiaro a quello che ha fatto ultimamente Lewis Hamilton. Insomma, forse sta cominciando a dare un po' fastidio il suo personaggio, che sta diventando ingombrante. Adesso le sanzioni nei confronti di Hamilton, che comunque dovrebbe anche ripassare il regolamento perché non so ricorda bene, adesso sono sanzioni meno pesanti rispetto a quanto poteva essere in passato, direbbe quello malizioso. Anche questo è vero, e poi va detto che la stessa squadra ha sbagliato, perché se vedi che fa una volta quell'errore, tu gli devi dire di non andarlo a rifare una seconda volta, insomma. Quindi è giustamente Allison, poi nel dopogara si è preso le colpe, anche come squadra dice: anche noi siamo stati un po' distratti, dovevamo impedirgli di fare il secondo errore identico al primo, quindi sarebbero stati soltanto 5 secondi di penalità. Forse, sai, quando hai già in tasca praticamente il titolo mondiale, ti lascia ad andare a un po' di distrazione, come può fare Hamilton, che però ha dimostrato di non conoscere molto bene il regolamento, perché poi quando gli è stato fatto scontare la penalità durante il pit stop, lui ha chiesto ai box: ma perché me lo state facendo scontare adesso, infatti, che il regolamento è chiaro, insomma. Quindi vabbè. Sì, è un po' un paradosso, parliamo di un 6 volte campione del mondo. Esattamente, però nella squadra deve esserci qualcuno che glielo ricorda, insomma. Lui non deve conoscere tutti i cavilli del regolamento, le cose basilari, le bandiere, tutto ovviamente sì, però nella squadra forse qualcuno che gli dia dei consigli giusti ci vorrebbe. Detto questo, parliamo della Ferrari. L'appuntamento con la storia alla gara in Germania. Lui raggiungerà Michael Schumacher nel Gran Premio di casa di Michael Schumacher. Sì, la famosa 91esima vittoria della carriera. Parliamo della Ferrari. Sesto Leclerc, che io reputo miracoloso per quello che ha fatto. Quinta volta a punti sulle prime 10 gare di questo mondiale. Vettel, da chi l'ha visto, almeno è stata una Ferrari dignitosa. Sì, dobbiamo capire, come direbbe Crozza in versione Binotto, dobbiamo capire. C'è qualcosa che ci sfugge. Così avanti, c'è qualcosa che ci sfugge. Però sentire Leclerc che dice una gara molto positiva, ecco, forse non esageriamo. Diciamo che, come dici tu, è andata oltre quelle che erano le aspettative. Se tu hai un pilota doppiato e l'altro che comunque arriva a un minuto, quello che arriva comunque a un minuto in sesta posizione ha estratto il meglio possibile da questa macchina. Che purtroppo lo sappiamo, quest'anno è fatta così, anche i piccoli miglioramenti che sono stati portati qui non sono quelli che hanno prodotto questo risultato. Diciamo che Leclerc riesce a estrarre il meglio di questa SF1000, quindi a restare a un minutino più o meno da Bottas. Vettel invece ha rischiato anche di farsi male ieri, non è da lui andare a picchiare così in qualifica. Ieri ha preso una brutta botta, rischiando tra l'altro di coinvolgere poi anche il suo compagno di squadra, e oggi in gara già alla prima curva si è capito che la sua sarebbe stata una gara confusa in mezzo alla gente. Ecco, se poi parliamo di commissari, va detto che Leclerc è stato perdonato dai commissari, perché ha dato una spallata a Stroll che in altri Gran Premi avevamo visto sanzionata, insomma. Sì, quello che è innescato poi all'inizio, diciamo, l'ingresso della safety car. No, io vorrei ricordare che Sebastian Vettel guadagna credo 30 milioni di euro in questa stagione. Sì, al contatti più o meno sì. No, perché io credo che se tu poi costantemente resti staccato un secondo al giro quasi dal tuo compagno di scuderia, quindi non stiamo parlando degli altri che hanno delle auto nettamente superiori nel caso della Mercedes e di qualcun altro, ma insomma parliamo del pilota che divide con te il box, insomma, io credo che si debba fare un ragionamento sul comportamento di Vettel in questa stagione. Non so, direttore, se lo condividi. Sicuramente, ma anche per quello che la Ferrari ha deciso di non rinnovargli il contratto a quelle cifre, gli aveva chiesto di ridursi l'ingaggio quest'anno, lui ha preferito continuare per la sua strada, ha trovato un accordo con l'Aston Martin per l'anno prossimo, sicuramente meno importante anche dal punto di vista economico. Vedremo se l'anno prossimo tornerà a essere il Vettel che abbiamo visto all'inizio della sua carriera in Ferrari. Certo, quest'anno sta facendo una stagione molto confusa, non ha trovato la macchina come voleva, e poi all'interno del team l'atmosfera non è certo più quella degli inizi, visto che gli è stato comunicato che all'inizio dell'anno la scelta che la Ferrari aveva fatto. Mi avrebbe voglia però, Umberto, di accomunare Vettel a Dovizioso, discorso che poi faremo, sono due che hanno praticamente staccato la spina ma non fanno niente, Dovizioso in maniera ancora più colpevole perché è candidato per il oggi mondiale. È stato trascinato giù. Dovizioso. Sì, è stato Giovanni, però sta facendo un mondiale orrendo. Va bene, grazie direttore. Grazie a voi. Ciao Umberto. Ciao, ciao, ciao. Grazie ad Umberto Zappelloni, 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta. Ci fermiamo qualche istante e ripartiamo dalla MotoGP, poi vediamo anche le formazioni ufficiali di Crotone Milan e Napoli Genoa. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Tutti convocati. Blumatica, il software scelto da ingegneri, architetti, geometri, geologi e periti. Vi presenta Tutti convocati. Bisogna conoscere le dinamiche di tanti dettagli e tante situazioni per parlare di vincere un campionato, e quindi quest'anno secondo me è un anno completamente anomalo per tantissime motivazioni, lo dimostrano tutte le gare, guarda Vignales anche questa gara ha dominato l'ultima, e è un po' strano tutto, però il punto è che non riesco ad essere veloce quanto vorrei con la nuova gomma, questo è quello che sta complicando tutto. Stavamo parlando di Dovizioso, eccolo, al termine di una gara che di fatto non ha corso, quella del Gran Premio della Catalogna al Montmeló, è stato steso da Zarco dopo poche curve, entrambi forse traditi dalla mezza caduta di Petrucci, che invece sì, è rimasto in pista, poi Zarco che ha travolto Dovizioso. Poi è caduto anche Valentino Rossi, a 9 giri dalla fine era secondo in classifica, Quartararo ha vinto, poi due Suzuki che alla fine andavano davvero al doppio della velocità rispetto alle altre, molto molto performanti, le Suzuki di Mir e Rins, poi Franco Morbidelli quarto, via via tutti gli altri, classifica mondiale, Quartararo 108 punti, Mir 100, Vignales 90, Dovizioso 84, Morbidelli 77, diciamo che da qui in giù più o meno non dovrebbero esserci più chance di rientrare nella corsa mondiale. Anche se questo è un mondiale che è davvero difficile, Carlo, no? Da interpretare. Ma è difficilissimo. Ma tu pensa che adesso, prima Quartararo, che è partito fortissimo nel mondiale, poi ha avuto un insabbiamento, adesso è riemerso. C'è Mir, che comincia a pensare sia il vero favorito, che è lì secondo e non ha ancora vinto una corsa, su una Suzuki che va fortissimo. Oggi Dovizioso, hai ragione, è stato steso non per colpa sua, però se parti dalla cantina dello schieramento è anche normale che... Il rischio lo corri. Sì, è figlio anche di un sabato pazzesco da dimenticare totalmente. Fammi salutare Carlo Pernat. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Ciao a tutte e due. Sì, sono qui nei Paddock, c'era un casino prima a Suzuki, sono arrivati i piloti dallo Po, figurati. Ha ragione, ma sai, io questa qua la chiamerei un po' il Gran Premio della svolta o delle svolte, ma svolte positive e svolte negative, direi la svolta di Quartararo ha svoltato, è tornato a sorridere, a correre bene, a fare il Quartararo che conoscevamo, quindi è una svolta molto positiva per lui. La svolta negativa di Dovizioso, purtroppo, ahimè, non per colpa sua, però è una svolta molto negativa, sai, uno zero in questo momento, anche se in un campionato anomalo, conta qualcosa. La svolta positiva della Suzuki, di Mir e di Rins. Rins è svegliato, a forza di prendere bastonate dai compagni di squadra, ha detto ci sono anch'io, però hanno una motoretta, francamente, tra virgolette, che con le gomme si dà del tu, gli altri si danno del lei con le gomme. Quindi è una moto da titolo, perdonami Carlo, così la facciamo fuori subito, perché la classifica dice che Mir è lì, eh? Guarda, è una moto da titolo, anche perché i circuiti che vengono adesso sono circuiti che non danno niente di negativo, anzi danno molto di positivo alla Suzuki, che riesce a consumare meno le gomme, se ci fai caso gli ultimi 4-5 giri arrivano sempre, hanno solo un piccolo difetto, i piloti, non la moto, non riescono a sfruttare la gomma da tempo, non riescono assolutamente a sfruttare la gomma da tempo, vedi che partono sempre in terza quarta fila, oggi Mir poteva anche vincere, è stato 6 giri dietro a Miller, non ce la fa la Suzuki a passare la Ducati. E quei 6 giri, secondo me, si è giocato Gran Premio, si è giocato, tra virgolette. Beh, pensa che non ha ancora vinto, Carlo, quando comincia a vincere chi lo prende più, Cioè, è lì secondo in classifica, non ha ancora vinto una corsa. Ma no, è molto forte, guarda, veramente un pilota che è esploso, bravo Davide Brivio, perché sai, diciamoci le cose come stanno, Davide Brivio, ha una funzione particolare ma pericolosa per la Suzuki, perché sai, lui gestisce tutto. Lui prende i giovani che, secondo, ricordatevi Vignales, Iannone, Mir, Rins, e li paga anche tanto. Però sai, se li sbaglia, invece li ha azzeccati tutti, quindi è molto bravo anche nella scelta dei piloti, diciamoci le cose come stanno. Questo va dato a Cesare quel che è di Cesare, a Davide quel che è di Davide. Però c'è stata anche la svolta negativa, un'altra svolta, quella di Valentino. Sì. Non vorrei, sai che io non vorrei, io la potrei chiamare ansia da prestazione, forse esagero, però capite quello che voglio dire. L'ansia di prestazione è quando tu sei lì, hai 41 anni, 42, gli altri ne hanno 20, stare lì è il limite, secondo me, oltre il quale vai. È già due volte, mi direi questa volta non se ne è accorto, cioè non sa nemmeno perché è caduto, perché è la gomma, è chiaramente, l'altra volta ha fatto un errore. Sai, quando arrivi, sei lì, ha fatto una gran gara, delle gran prove, niente da dire, però quando arrivi lì, stare a quei livelli, non so, mi faccio un punto interrogativo, un punto di domanda me lo faccio. Quindi la domanda perché... è, cioè, ci sono precise responsabilità in questo doppio zero o sta spingendo oltre il limite una moto che quello può dare? Io ho l'impressione che lui stia spingendo oltre il limite della sua possibilità di spingere a 41 anni e mezzo, questo è quello che penso io, non tanto della moto, perché Quartararo o Morbidelli hanno vinto, quindi la Vignale sa anche, quindi voglio dire, tutto sommato la moto non è abbastanza competitiva, ha meno problemi di quelle che aveva prima, ricordatevelo, secondo me Vale in questo momento... sta dando tutto quello che ha, ma secondo me sta andando un po' oltre. Io, a me dispiace dirlo, per me è un'ansia alla prestazione, la giudico così. Oggi andava come Quartararo, quando è caduto, sì. Stava andando fortissimo. Oggi ha fatto immaginare di poter vincere. Oggi ha fatto immaginare di poter vincere. Sì, sì, io infatti ipoteticamente, guarda, nella presentazione di voto l'ho messo sul podio, non è che non l'ho messo terzo, quindi ero convinto anch'io, però a quei livelli ragazzi si va forte, si va forse troppo forte, non che Valentino vada piano, lei va fortissimo, però a un certo momento sai al limite, forse oltre il limite, non lo so, mi auguro di sbagliarmi, mi auguro che faccia dei gran podi. Tra l'altro non abbiamo neanche sentito parlare, non si è presentato ai microfoni dopo, evidentemente calzato è duro, deluso, certo, anche è perché deluso, appena, è ufficiale, appena rinchiostrato per l'anno prossimo, lo vedremo dove, ancora nel moto mondiale, ancora su una Yamaha, alla Petronas, adesso è ufficiale, si è tolto quell'1% di possibilità di non restare. Sì, ti ricordi che avevamo parlato, le sensazioni che si avevano, però erano sensazioni giuste. È riuscito a portarsi dietro tre persone, ha fatto quello che ha potuto, però è dura ragazzi, a questi livelli andare con questi assatanati è durissima. Mi spiace molto per la Ducati perché è stato uno strike, di praticamente un pilota involontariamente come Petrucci ha sbandato con la moto, ha innescato, pinzato. Certo, purtroppo, ti giro Carlo un sms 349-238-6666 che ha scritto un amico Igor che dice mettetevi voi nella testa di Vettel e Dovizioso, poi vediamo che motivazioni avrete. Quella di vincere il mondiale nel caso di Dovizioso, cioè mi sembra che motivazione più grande di questa non ci sia, tan licenziato, però sì, però l'abbiamo sentito prima, ha detto vincere il mondiale, voi parlate, ha detto sostanzialmente perché non conoscete tutte le dinamiche, come per dire è vero, i punti dicono che io lo posso vincere, la realtà non è questa. Guarda, le dinamiche sono così fatte che ormai non c'è più l'accordo che c'è stato in passato tra Andrea e Gigi Dalì, è inutile che stiamo lì a girare intorno all'argomento, io lo dico chiaro e tondo, il problema è dentro, non c'è più quella gran fiducia reciproca, tant'è vero che si è un po' svuotato Dovi. Anche oggi onestamente ho sentito il commento prima, partiva dalla 17ª posizione ragazzi, dove vuoi andare? Normale che ti capiti un incidente, non è il casino. Se parti in quelle posizioni trovi degli assatanati che sbagliano, assatanati nel senso positivo, quindi francamente vedere le gare così di Dovizioso mi rattristano perché non l'ho mai vista, ho visto un altro Dovizioso, per me credetemi l'ambiente in questo momento conta molto, perché poi alla fine se vedete i due piloti della Pramac, che è un ambiente simile ma molto diverso, non sono andati male sia Miller che Bagnaia, nonostante le prove. Quinti e sesti, sì. Esatto, negativa, hanno fatto una bellissima gara. Alla fine hanno ottenuto, secondo me, il bicchiere è tre quarti pieno, per quanto riguarda Pramac Ducati, è completamente vuoto per quanto riguarda il team ufficiale, anche Zarco, nonostante Petrucci oggi abbia guidato abbastanza bene, diamogli atto che non ha fatto un brutto risultato, però non è quello che ci aspettiamo dalla Ducati, ragazzi. Grazie Carlo. No, assolutamente. Grazie a Carlo Pernat. Così chiudiamo la pagina dei motori, pronti ad aprire la pagina del calcio. Sta parlando Juric ai microfoni di Sky. Il suo Verona ha vinto 1-0, gol di Faviglia al 12° del secondo tempo contro l'Udinese, ed è a punteggio pieno, perché unisce questa vittoria a quella a tavolino ottenuta nella gara di esordio contro la Roma. Vi leggo le formazioni ufficiali di Crotone, Milan e Napoli-Genoa, gare che cominciano alle ore 18. Il Milan gioca a Crotone con il 4-2-3-1, Donnarumma in porta, Calabria, Kier, Gabbia e Teo Hernandez sulla linea difensiva, che sì è Tonali, che dunque debutta dal primo minuto. Sono i due centrocampisti davanti alla difesa, Brahim Diaz, Çalhanoğlu e Salemakers, i tre giocatori che sono alle spalle di Rebic. Sapete che Ibrahimovic non c'è perché è trovato in settimana positivo all'esame del tampone per il Covid. 3-5-2 per il Crotone, Kordaz in porta, Magaian, Marrone e Golemic sulla linea difensiva, Pedro Pereira, Messias, Cigarini, Zanellato e Molina a centrocampo, Dragus e Simi in attacco. Queste le formazioni per quanto riguarda Crotone-Milan. Abbiamo anche quelle di Napoli-Genoa. Napoli senza grosse sorprese, gioca Meret in porta, in difesa Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Isai, a centrocampo Fabian Ruiz e Zielinski, che sono i due mediani, alle spalle di Lozano, Mertens, Insigne e Osimhen, che dunque debutta in Serie A dal primo minuto dopo aver spaccato la partita nella sua gara d'esordio. C'è qualche cambiamento nella formazione del Genoa, è un 3-4-1-2. Sapete che il Genoa ha due positività che sono state segnalate, quella di Perin e quella di Schöne, che non ci sono, sono in isolamento. Gioca Marchetti in porta, la linea difensiva è composta da Biraschi, Goldanig e Masiello, a centrocampo Pellegrini, Lehrager, Badeli e Zappacosta, e poi dovrebbero esserci due rifinitori, Piazza e Zaic, alle spalle di Mattia Destro. Alle 18 il fischio d'inizio sia a Crotone che a Napoli. Noi ci fermiamo per un minuto e poi apriamo la pagina del calcio partendo da quello che abbiamo visto ieri sera in Inter-Fiorentina. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati. L'Inter è gli usaggi della Frappa, è gli Echt Frappa, Olanda Frappa, D'Ambrosio, D'Ambrosio, D'Ambrosio, pazza pazza Inter, pazza pazza Inter. Hai sentito come ha commentato il telecronista arabo il gol di D'Ambrosio ieri? Complimenti a chi ha avuto questa genialata, meravigliosa telecronaca in arabo, questa mi mancava. Pazza, pazza, pazza Inter. Saluto Alberto Zaccheroni, ciao mister, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao. Allora, intanto vi do una notizia che è quasi storica, ha perso il Bayern Monaco. È stato battuto 4-1 in Bundesliga dall'Hoffenheim, non perdeva dal dicembre 2019, quindi merita una parentesi, un'introduzione. Dopo aver vinto la Supercoppa europea. Sì, dopo aver vinto tutto praticamente, quindi ve l'abbiamo detto, Hoffenheim 4, Bayern di Monaco 1, segnatevi la data nell'agenda perché potrebbe non ricapitare fino al 2022. Alberto Zaccheroni, io non so se l'Inter di ieri sia stata pazza, io trovo che sia estremamente forte. Sì. Adesso definire l'Inter lo sai che è sempre complicato, no? Lasciamo stare il termine pazza, però ci aspettiamo sempre di più di quello che poi ci fa vedere, però alla fine soprattutto nel finire delle partite, in questi anni nessuna come l'Inter è riuscita ad agguantare il risultato intero, no? Questo anche prima di Conte, anche con Spalletti, no? Con l'attacco all'arma bianca, sui finire di partita tutti avanti senza mantenere un minimo di equilibrio, l'Inter è sempre riuscita a fare il suo risultato più di altre. Ieri l'ha confermato, perché quella partita lì non si riusciva a capire come potesse rimediarla, e poi dopo è successo quello che è successo sul finire. Anche se ci dovremmo abituare, secondo me, con i cinque campi, le grandi hanno un bel vantaggio, perché avendo maggiore qualità in panchina, perché non tutte le squadre dispongono di tanti uomini in panchina di qualità. Non tutti possono far entrare Hakimi, ecco. Sensi, Vidal, Nainggolan e Sanchez. Cinque favorisce sicuramente le squadre più ricche, quelle che si possono permettere un organico più talentuoso. Dopo su questo ho una domanda da farti, perché c'è anche chi polemizza dicendo che questo non è calcio, nel senso che cinque cambi così è troppo e c'è una sproporzione esagerata tra le grandi e le piccole, ma ci arriviamo. Mi dice Alberto se la partita di ieri è di quelle che fa arrabbiare o fa contento un allenatore? Il carattere mostrato dalla squadra sul finale ti fa contento. Siamo all'inizio del campionato, qualche squilibrio è normale che ci sia, anche se le incognite mostrate ieri sono non poche, ti fa andare dentro lo spogliatoio con pensiero positivo, perché hai portato a casa tre punti, e quei tre punti che probabilmente in pochi ci speravano, al massimo speravano in un pareggio. Però io un pochino preoccupato sarei, però teniamo anche presente che mancavano degli uomini, soprattutto in difesa, cioè la squadra è stata un po' stravolta. Sì, mister, parti dal presupposto che l'Inter, insomma, l'ultima Inter, quella di europea, che ha sbagliato sì la finale di Europa League, ma c'era arrivata molto bene, era già una cosa seria. A questo aggiungi comunque che Conte adesso, quando si gira verso la panchina, vede Hakimi, vede Sensi, vede, insomma, inutile stare a fare l'elenco, Sanchez, quelli che sono entrati, e credo che la grande differenza ieri sera, che la ragione sia proprio da spiegare nel valore assoluto tecnico dei cambi che ha a disposizione, che lo avvicina moltissimo alla Juve. Anche lo stesso Sensi è entrato, per me è entrato molto, molto bene. Meglio di Eriksen, ha fatto più Sensi in mezz'ora che Eriksen in un'oretta. Mi sembrava di rivedere il Sensi di inizio stagione prima dell'infortunio. Quindi quel gap con la Juve è azzerato? A livello qualitativo sì, secondo me sì, ci può stare. È a livello di abitudine a vincere che ancora non c'è. E quindi rimane questo grande dubbio. La Juventus è abituata a vincere, e gira e rigira riesce sempre a portare a casa il risultato. L'Inter spende anche molto, perché abbiamo visto ieri sera, ma l'abbiamo visto anche in altre occasioni. È una squadra che faceva fatica, anche l'allenatore si sta rendendo conto che di non averla completamente in mano. Invece la Juventus lo sai che alla fine gira e gira, riesce comunque a chiuderla. Adesso le incognite sono tante, perché davanti hai tanta qualità, perché Lautaro. No, ma poi non solamente Lautaro e Lukaku, ma chi ha dato la svolta più incisiva ieri sera è stato Sanchez. La squadra, ad avversario stanco, un po' sulle gambe, la sua vivacità, la sua iniziativa, lui è entrato immediatamente in partita ed è andato a incidere fino a poco, a mio avviso. Però lì c'è da definire alcune situazioni, perché Brozovic è irriconoscibile. Ieri ha giocato Perisic, che è fuori dal progetto. Abbiamo visto una difesa che non avevamo mai vista e non ci siamo neanche mai immaginati, composta con due adattati su tre, perché D'Ambrosio e Kolarov sono di fatto due adattati, certo. Tornerà in fretta De Vrij, vedremo che cosa succede a Skriniar, perché poi in realtà i rinforzi ce li ha già da mettere dentro, per quanto riguarda la fase difensiva. Antonio Conte serve. E poi ti dico che io mi sono collegato un attimo in ritardo al gol della Fiorentina, e ho visto Kolarov, difensore centrale, bastone sinistro, in quell'occasione, mi ho spaventato un pochino. Sì, anche io sono tornato indietro, devo dirti, con My Sky, ho detto cos'è successo. Però insomma è stato un assestamento, probabilmente era anche prevedibile. Sì. Allora ti faccio la domanda che ti ho anticipato prima: con i 5 cambi è calcio vero? Sì, per me rimane calcio vero, però il gap tra le grandi e le piccole, come hai detto e come avevo lasciato intendere io prima, è evidente, c'è un aumento di vario di possibilità, aumentano le possibilità, notevolmente le possibilità di fare proprio il risultato da parte delle grandi squadre, perché i cambi diventano decisivi, poi con i ritmi di oggi è difficile per le squadre minori reggere il confronto. Beh certo, d'altra parte guarda ieri sera, cioè la Fiorentina che pure non è una squadra che sta male dal punto di vista dell'organico, cioè fa i cambi, entrano Lirola, entra il vecchio Borcavalero, entra Cutrone, entra Vlahovic che peraltro si mangia un gol, dall'altra parte ti entra Hakimi, Sanchez che ricambia la partita. Io credo che Sensi, Vidale, Nainggolan. Beh ragazzi, cioè credo che il grande valore aggiunto sia questo. È chiaro che le grandi squadre hanno questo indubbio vantaggio sulle altre squadre più ricche. I tifosi della Fiorentina ce l'hanno un po' con gli Hakimi, che hanno detto che scusa, Sensi, Vidale e Nainggolan. Sì, vuol dire giocare due partite in una. A testa lucida, a mente lucida sono freschi, è tanta roba. Certo, c'è qualche tifoso della Fiorentina che se l'è presa con Iachini per i cambi, dicendo togliendo Chiesa e Ribéry di fatto ha dato il segnale all'Inter che poteva provare a mettere le tende negli ultimi 20 minuti nella metà campo della Fiorentina. A me quello che ho sorpreso un pochino di più sono le due punte davanti sul finire di partita, che erano un po' statiche, che non erano in grado di tenere palla. Stavi vincendo, manca poco alla fine, cioè, se andiamo a guardare la prestazione di questi, in realtà hanno dato poco e niente, hanno scollegato la squadra, perché se ricordo bene la Fiorentina ha messo in difficoltà l'Inter lasciando giocare i tre difensori e facendo grande intensità e di conseguenza superiorità numerica in mezzo al campo. Sì, dopo con questi due punti la squadra si è scollegata, questi due punti sono rimasti un pochino più avanti e non facevano neanche filtro, hanno fatto poco. Sì, è diventato come giocare contro un muro che te li rimandava sempre da questa parte gli avversari. Grazie Alberto. Ciao mister, grazie a voi, presto. Grazie ciao voi. Ciao, grazie ad Alberto Zaccheroni, detto che poi ieri sera abbiamo visto un Frank Ribéry straordinario, anche il miglior chiedo calcio del 2020 secondo me. Sì, non mi è sembrato un giocatore con la testa al mercato. No, per la prima volta no, dopo moltissimo tempo, ripeto, il miglior Chiesa visto in questo disgraziato anno solare. Ma mi è sembrato molto coinvolto Chiesa, nonostante poi le parole di Commesso, non so se ne parleremo dopo, che dice, però potrebbe anche andare via. Quindi lo rimette di fatto in qualche modo sui banchi del mercato. Fatto sta che ieri sera ho rivisto finalmente almeno in parte il giocatore che ci ricordiamo. Sì, sul mercato c'è anche Milenkovic per quanto riguarda la Fiorentina, così come c'è Skriniar per quanto riguarda l'Inter. Ieri Conte lo ha detto chiaramente, non è fuori dal progetto, ci serve se dovesse arrivare un'offerta di un certo tipo. I discorsi con la proprietà sono chiari, sono quelli che ha spiegato anche Marotta nella conferenza stampa di venerdì, e quindi di fronte a offerte di un certo tipo non è immaginabile che Skriniar resti. Poi io credo andrà eventualmente sostituito, perché avere una rosa molto profonda e avere una difesa in cui metà dei difensori sono degli adattati, beh, visto ieri sera, no? Rischia poi di creare confusione come è successo ieri. Allora, meno di un quarto d'ora all'inizio di Crotone, Milan e Napoli-Genoa, che seguiremo in diretta a partire dalle 18. Vogliamo parlare anche dell'Atalanta, perché ieri è stata evocata la parola scudetto e non è scappato nessuno. Sì, è vero. Abbiamo visto anche la Lazio. Allora, il traffico, un minuto, torniamo subito, 800 24 0024 per intervenire in diretta. Chiamate e prenotatevi. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24 800 24 00 24 Tutti convocati. Tutti convocati. Sì. sappiamo che è un traguardo molto difficile, devi arrivare più o meno a 90 punti, cercare di perdere il meno possibile. Sicuramente sarà un campionato più equilibrato dell'anno scorso e vedremo dove saremo tra qualche mese, ma noi la nostra idea è sempre cercare di stare dentro le prime sei. Ma guarda, io non so nemmeno dove metterci nella griglia di partenza e sinceramente in questo momento nemmeno mi interessa più di tanto. Abbiamo visto che l'anno scorso non eravamo nelle prime quattro all'inizio e siamo arrivati al lockdown secondi a un punto dalla prima, quindi bisogna solo fare bene in campo, dimostrare il proprio valore in mezzo al campo e poi tutto quello che succederà da ora fino alla fine del mercato non ci deve interessare perché il gruppo è eccezionale, quelli che sono arrivati ci daranno una mano. Oggi costruendo la puntata ci ha un po' colpito, Carlo, questa differenza di stile comunicativo tra Bergamo e Roma, tra Atalanta e Lazio per intenderci, di fronte all'ipotesi di dire voi siete in corsa per lo scudetto. Abbiamo sentito il Papu Gomez, abbiamo sentito Ciro Immobile. A Bergamo non scappano quando sentono evocare lo scudetto, l'ha detto anche Gasperini, siamo meglio dell'anno scorso. Sì, ma il fatto è vero. Cioè, sono meglio dell'anno scorso, corrono leggeri perché nessuno gli chiede di vincere lo scudetto, a differenza delle altre grandi pretendenti. E poi non vedo perché l'Atalanta è migliorata rispetto all'anno scorso perché ha perso solo Castagne sul mercato, ma quelli che sono arrivati sono di livello, quindi non vedo perché dovrebbe essersi rotta la magia, spezzato il filo eccetera. Tanto era una grande squadra, lo è ancora. Gasperini ha ributtato lì che se avesse vinto Torino con la Juve l'anno scorso magari poteva finire diversamente. Saluto Bortolo Muti, ciao Bortolo, buon pomeriggio. Come sta? Buon pomeriggio a voi. Allora io te la faccio diretta la domanda, l'Atalanta è da scudetto? Ma guarda, per me può essere l'anno giusto. Nel senso che è una squadra che ha le sue certezze, ha le sue veramente, come dire, individualità e rafforzate da un buon mercato. È una squadra che ha una solidità incredibile, un ambiente che non gli chiede niente più di quello che già ha avuto, però che nello stesso tempo ha entusiasmo e anche, diciamo così, questo, non dico sogno, però vedendo come è andata l'anno scorso e come magari poteva anche finire sotto certi aspetti, se certi episodi potevano andare meglio. Ma guarda, è una cosa che magari sotto sotto non si dice, però si pensa. Io credo che quest'anno l'Atalanta veramente abbia ancora è alzato l'asticella sotto tutti gli aspetti, perché sì, ha acquisito dei ragazzi veramente importanti, magari non conosciutissimi, ma come sempre poi risulteranno. Vediamo se recupera Ilicic come pare, perché ci sono segnali incoraggianti. Vediamo Miranchuk che sì, è un gran giocatore, anche se non lo conosciamo bene, non l'abbiamo ancora visto, però è un gran giocatore Miranchuk, sì. E quelli che sono arrivati, insomma, li vediamo. Lammers, anche lui è un ottimo giocatore. Toglimi una curiosità invece tattica. La grande novità è la doppia punta, no? Muriel insieme a Zapata, cosa che l'anno scorso non accadeva frequentemente. Credi che possa essere una soluzione stabile? Credi possa essere un rischio? Perché secondo me è importante avere di rincorso un giocatore come ad esempio Muriel, lo stiamo vedendo, vale il discorso che abbiamo fatto prima per l'Inter, che entra a partite in corso e ti spezza ti spezza la difesa avversaria. Io penso che la cosa andrà modulata in virtù proprio anche un po' delle condizioni di Muriel, che è un ragazzo di grande, diciamo così, incisività. Quando entra è stato determinante tantissimo proprio, però è un giocatore che anche nei 90 minuti, se parte, può farti la differenza. Poi sicuramente adesso è Mandžukić, ma c'è Pašalić, c'è Malinovskyi, sì, quelli che possono entrare a partite in corso cambiando il ritmo sono quelli, però la cronaca sta dimostrando come sono sempre più importanti questi che entrano e fanno la differenza. Però attenzione, la grande differenza è la consapevolezza che sta prendendo acquisendo questa Atalanta, che negli ultimi due anni era partita ad handicap. Cioè Gasperini aveva sempre avuto questo problema, che le prime giornate aveva lasciato lì tanti punti, si era perso un po' nella costruzione del suo meccanismo, nel rimetterlo a posto. Io devo dire che ieri una squadra che pronte via comincia, non gioca bene i primi 15-20 minuti, perché l'Atalanta ha preso un gol, il Toro avrebbe anche potuto segnarne un altro, e poi va avanti come se niente fosse, come se questa fosse la 39esima giornata del campionato scorso, in cui sei secondo, terzo in classifica. Io devo dire, ma veramente impressionato. Sì, sì, ma è proprio anche questo aspetto mentale che riesce a tenere in campo, nonostante magari l'handicap del gol preso o del momento di difficoltà, non incide minimamente sulla la prestazione poi della squadra, che va avanti per la sua strada e fa quello che deve fare. E come ieri col Torino veramente c'è stata una differenza enorme. A un certo punto sembravano due squadre su due pianeti diversi, senza togliere niente al Torino, per carità, però effettivamente sorprende. Come hai detto, di solito l'Atalanta in questi ultimi due anni è sempre partita un po' col freno tirato. Ora sembra invece che, come ha fatto, sia molto più sciolta, molto più consapevole. Ma vediamo, io penso che sicuramente mercoledì Lazio-Atalanta, mercoledì sera, recupero della prima giornata. Visto la Lazio, ho visto un'ottima Lazio veramente anche a Cagliari, per cui si prospetta sicuramente una partita ad alto livello, una Lazio diversa. Il lockdown ci ha dato una Lazio inguardabile veramente, che non ci aspettavamo. Abbiamo rivisto la Lazio, quella giusta, insomma, quella consapevole che poteva magari insidiare anche lei, la Juve, insomma. Vedremo, sicuramente è una partita da goderci, da vedere. Eh sì, una grande partita. Mercoledì ci sono i tre recuperi della prima giornata. È un calendario bellissimo, perché mercoledì c'è Lazio-Atalanta, domenica c'è Lazio-Inter, c'è Juventus-Napoli, quindi stiamo parlando di un campionato che poi ci porterà verso la sosta, ma ci porterà già con tanti elementi per giudicare come è ripartito. E quando si guarda quella parte altissima della classifica, non si può più fare a meno di guardare anche l'Atalanta, anche in chiave scudetto. Grazie Bortolo. Ciao mister. Niente, è un piacere. Ciao. Ciao, ciao. Grazie a Bortolo Mutti. Allora, noi ci fermiamo perché c'è il GR. Ricordiamo che alle 18 seguiremo Crotone-Milan e Napoli-Genoa. Parleremo anche di quello che succede questa sera alle 20.45 con Roma-Juventus. Parleremo di quello che è stato il mondiale di ciclismo con la delusione azzurra, la vittoria del francese Alain Philippe. E avremo alle 18.35 l'appuntamento consueto con Luca Marelli, con VAR Anatomy. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Ogni giorno alle 13 i nuovi fatti di attualità iniziano a prendere forma. In 60 minuti proviamo a spiegarveli bene, capire per farsi un'idea da condividere con gli altri. Perché la cronaca non è solo una notizia dietro l'altra. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto a Effetto Giorno, tutti i giorni alle 13, naturalmente su Radio 24. Convocati. In mezzo, 3-2 Roma, l'antisima sul primo palo, cieco ancora, cieco e cieco, e la Roma la ribalta. Io ho parlato con Dzeko diverse volte e sta molto motivato, ha allenato molto molto bene questi giorni e giocherà domani. Ma è un pericolo, è un grande giocatore che abbiamo ammirato in tutti questi anni, che sarebbe potuto essere un attaccante della Juve, però non è andata a buon fine la trattativa, però rimane un grandissimo giocatore che stimiamo e che purtroppo domani sarà ad avversario. Devo dire che mi è piaciuto Mkhitaryan come 9, ma quando abbiamo un attaccante come Dzeko non fa senso pensare a usare Miki come 9. Beh, è bravo, Mkhitaryan come 9, però se puoi far giocare Dzeko, carissimo Carlo, è un po' meglio, direbbe la Palisse, e lo ha detto anche Fonseca. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, se volete prenotarvi, siamo qui fino alle 19. Fonseca, che è stato un po' vittima e un po' carnefice di questa settimana della Roma, sì. Vittima nel senso che non è colpa sua il caos del liste che ha costretto poi la Roma a perdere a tavolino contro il Verona, carnefice perché in tanti hanno giudicato comunque sbagliata l'idea di non dare almeno uno spezzone di partita ed in Dzeko, che però questa sera ci sarà nella partita, questo Roma-Juventus ore 20:45, che è soprattutto la partita di Edin Dzeko, perché sarà con la maglia giallorossa, poteva essere con quella bianconera. Vedremo se con la bianconera ci sarà il debutto bis di Alvaro Morata, che in una settimana molto complessa per mille motivi, inutile stare ad elencarveli, per la Juventus è alla fine stato imbarcato al posto di tutti gli altri attaccanti di cui si è parlato. Intanto 6 minuti, 7 minuti in campo, Napoli-Genoa 0-0, Crotone-Milan 0-0, seguiamo insieme a voi questo primo tempo. Max Nerozzi, Corriere della Sera, ciao. Ciao Max. Ciao. Allora, vediamo Alvaro Morata o no questa sera? È un'ipotesi, stanno facendo una riunione tecnica e sarebbe una grande sorpresa, perché fino all'altro giorno Pirlo aveva trovato la formazione che avevamo visto contro la Sampdoria. Questo vuol dire che, noi che siamo osservatori esterni non sappiamo ancora esattamente qual è la Juventus, non la formazione di stasera intendo, ma la Juventus come identità in campo. No, perché ieri ha preciso domanda a Pirlo, che è stato molto, molto sincero anche in quell'avverbio, l'importanza degli avverbi purtroppo su Dzeko, e poi come dicevi tu l'importanza che ha della lingua italiana, tornando alla settimana. No, perché a domanda se possono giocare assieme Kulusevski, Morata, Dybala, Ronaldo, Pirlo ha detto che è un'idea, che ci ha pensato e che quando saranno al top lui ha l'intenzione di cercare di vedere come mettere in campo. Quindi non, mi sembra onesto, penso... Max, mi sembra sincero, no, no, come ragionamento. Nel momento in cui avrà comunque la condizione fisica, la condizione tecnica, avrà inserito Morata, si saranno verificate tutte queste condizioni, credo che sia l'obiettivo cui Pirlo stia tendendo come idea. No, assolutamente, sono d'accordo. Per i metri forse nostri del calcio italiano, nonostante la il ritorno del gioco, del possesso territoriale, sarebbe una formazione abbastanza scabrosa, nel senso che Kulusevski ha fatto l'attaccante esterno a Parma, Morata lo conosciamo, CR7 lo conosciamo, soprattutto in fase di non possesso, Dybala, insomma, è un mix non male, ma sarebbe un mix non male anche per chi si deve giocare contro, ovviamente. Guarda, io voglio testimone Carlo Genta, mi ero appuntato, e poi non ne abbiamo parlato prima, nella chiacchierata con Alberto Zaccheroni, questa è la stagione della qualità, perché noi lo stesso discorso l'abbiamo fatto mezz'ora fa sull'Inter. Sbilanciata avanti e con grandissima qualità, non solo dalla panchina, ma anche in partenza. E potrebbe essere una traccia bellissima di questa stagione, mentre c'è il vantaggio del Napoli, decimo minuto, Napoli 1 Genoa 0, ha segnato Lozano, a proposito di qualità e di giocatori che l'anno scorso non hanno dato nulla rispetto a quello che erano le attese. Questo discorso vale anche ad esempio per il Napoli, il discorso che stai facendo tu e che possiamo fare in prospettiva per la Juventus vale anche per il Napoli, perché anche oggi Gattuso, vediamo dal primo minuto, Osimhen ora segna Lozano e sblocca questa partita, ha messo in campo da subito ed è l'idea a cui tende tutta l'artiglieria pesante, una squadra estremamente offensiva, se vogliamo anche sbilanciata, questo Napoli può essere davvero questa la tendenza nel momento in cui riesce a trovare degli equilibri, vale anche per l'Inter. Quindi ci dobbiamo abituare a questo, Max, secondo te? È una strada assolutamente, tra altre cose, insomma, Pirlo, gli fecero un videoclip quando giocava Pirlo, is not impressed, e penso che sia un allenatore che possa usare, perché non essere lui anche per la Juve. Io ho trovato abbastanza particolare quel purtroppo che hai citato anche tu, cioè parli di un attaccante che è sfumato per mille ragioni e dentro queste mille ragioni c'è anche il racconto di questa settimana movimentata sull'asse Torino-Perugia. È arrivato un altro numero 9, ti aspetti tutto tranne che un purtroppo. Purtroppo Dzeko non è arrivato. Hai ragione Giovanni, però ha parlato molto bene anche di Morata e anche lì onestamente era sincero e poco paraculo. Ma ci aiuti a inquadrarlo dal punto di vista comunicativo, Andrea Pirlo? Perché a me sorprende molto, cioè lui è un allenatore debuttante, ma mi pare che quando apre bocca comunque va giù abbastanza dritto rispetto all'obiettivo. Sì. Ti, ti, ti, dire magari un'enormità, perché non puoi paragonare come allenatore, perché no, ha allenato una partita, però vedendolo da vicino al campo con la Sampdoria, qualche conferenza stampa quando è arrivato, lui ha la naturalezza o, non so, come dici tu, la sincerità, se la può permettere, che io vedevo in Zidane, ma anche quando sta in panchina, cioè la stessa carisma che, come giustamente spesso ricordate voi, ti riconoscono gli altri, non sei tu che ti imponi. Lui così era nello spogliatoio, uguale così era in campo. Poi se è un grande allenatore non lo so, vedremo quando arriva, però la sensazione che ho avuto io con la Sampdoria è stata quella. E Ranieri, una vecchia volpe e un allenatore di lungo corso, la prima cosa che ha detto domenica sera a questa domanda è: si sente subito il feeling che c'è tra la squadra e l'allenatore. Non dimenticare che Pirlo è uno di quelli che ha iniziato il ciclo di questa Juventus dei 9 titoli consecutivi, l'ha iniziato da giocatore, certo. Quindi è uno che è veramente calato ed è parte di quel gruppo. Quanto all'abilità comunicativa, non possiamo dimenticare che comunque è uno che i microfoni più o meno li conosce, magari non li frequenta come me e Giovanni tutti i giorni, però è uno che, insomma, io credo che sappia stare e sia anche discretamente abituato a stare davanti a un microfono e a parlare in conferenza stampa. Sì, sì, io ho avuto quell'impressione lì, onestamente. Poi, ripeto, abbiamo parlato 100 volte, il click del grande allenatore è se tu le cose che pensi ne riesci a far fare in campo. E in questa partenza lui, secondo me, sta riuscendo a incidere sui giocatori che non hanno tanti alibi, dopo le cose che sono state dette sulla gestione di Sarri, tra l'altro, quindi anche i giocatori si giocano abbastanza, non dimentichiamolo. E quindi lui per me è partito bene, poi vediamo, perché insomma la Sampdoria onestamente bisogna farci una grande tara, quella che abbiamo detto l'altra sera. La con la Roma, anche se la Roma manca qualche pezzo, insomma Roma Juve non è mai banale. Ultimo tema prima del traffico per Max Nerozzi, Corriere della Sera. Al di là delle posizioni ufficiali, come è stata vissuta questa settimana dall'ambiente Juventus? Beh, insomma, è stata vissuta all'inizio con anche tranquillità, ti dico la verità, nel senso che c'era certezza di non aver fatto nulla di che, e c'è anche adesso la convinzione. Poi è chiaro che la sensazione, ma questo club un po' c'è abituato, che un po' di accerchiamento, un po' insomma che qualsiasi cosa che capiti, soprattutto extra calcio, possa essere buona per montare un'offensiva, non lo so, insomma, contro chi vince lo scudetto da 9 anni consecutivi, che è un meccanismo assolutamente rodato nel tempo, perché insomma chi vince è sempre quello più detestato. L'ho trovato molto molto italiano, dopodiché è chiaro che dovremmo soltanto affidarci ai fatti e a quel che succede. Però anche dalle parole di Pino di ieri non penso che tutto questo caos fuori sia arrivato alla squadra. Possa incidere soprattutto questa sera. Grazie Max. Ciao Max. Ciao, ciao a voi, buon pomeriggio. Ciao, grazie a Max Nerozzi. Allora, rapido riassunto di che cosa sta accadendo. Il Napoli è in vantaggio 1-0 con il Genoa, la rete segnata al decimo del primo tempo da Lozano, che è stato bravo dalla corta misura a deviare in porta su uno spiovente proveniente dalla tre quarti. 0-0 ancora a Crotone, quarto d'ora tra Crotone e Milan, ma Milan che sta attaccando a pieno organico, ha già avuto almeno 3 grandi occasioni, la prima con Çalhanoğlu che ha costretto il portiere Kordaz a una deviazione in calcio d'angolo, e poi 2 volte con Brahim Diaz, che si sta mettendo particolarmente in luce in questo avvio di partita. È un Milan che sta attaccando con grandissima convinzione, il risultato però è ancora fermo sullo 0-0 a Crotone, e dunque da qui ripartiremo dopo il traffico. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Blumatica, il software scelto dalle aziende per la sicurezza dei lavoratori. Blumatica.it vi presenta. Tutti convocati. Noi non vogliamo modificare la nostra identità perché giochiamo con Juve, vogliamo essere una squadra che pressa molto, che pressa alto, ma dobbiamo essere una squadra equilibrata. Juve è una squadra molto, molto forte, e penso che dobbiamo essere equilibrati. Quella che arriva è una delle notti che contano in una stagione anche per la Roma, soprattutto forse per la Roma, Carlo, anche se siamo soltanto alla seconda giornata del campionato, ma è stata difficile anche la settimana che si è vissuta a Roma, con spifferi sempre più forti a proposito del futuro di Paolo Fonseca. Saluto Fabrizio Roncone, ciao Fabrizio. Ciao Fabrizio. Ciao, buonasera. Ci credi che possa esserci già un allenatore a rischio dopo 180 minuti di campionato e con una sconfitta che in fondo non è colpa sua, quella di Verona? Sì, purtroppo il clima non è buonissimo. Fonseca ha attraversato l'ultima settimana, credo, in modo faticoso. Le voci su Allegri purtroppo sono abbastanza vere, nel senso che certamente l'allenatore è stato sondato, e poi credo che ci siano, non sia così automatica ancora l'ipotesi di un suo arrivo a Roma. Certamente Fonseca non è stato messo nelle migliori condizioni. Perché dici purtroppo? Stiamo parlando di Max Allegri. Stiamo parlando anche di purtroppo, abbiamo parlato di Pirlo che dice purtroppo Dzeko non è arrivato, allora, Fabrizio Roncone che dice purtroppo è stato sondato Allegri. Andiamo con ordine. Allora, io credo che in una situazione di normalità l'allenatore lo cambi prima che il campionato inizi. Credo che prima che il campionato inizi tutti i doti anche di un direttore sportivo. Credo anche che prima che il campionato inizi tu decidi che cosa fare del tuo capitano. Queste tre cose a Roma non sono successe. Perché? Perché poco prima che il campionato iniziasse, peraltro un campionato che sappiamo al tempo del Covid, quindi con una stagione chiusa in modo abbastanza rocambolesco e una cominciata in modo altrettanto rocambolesco, la Roma arriva con un proprietario completamente nuovo che sta mettendo le mani sulla società. E quindi la Roma si ritrova senza direttore sportivo, con un allenatore che probabilmente non è stato neanche scelto, semplicemente c'era e lì è rimasto, e con una situazione, quella di Dzeko, che è oggettivamente una situazione, diciamo così, pelosa, per non dire spinosa. Nel senso che Fabrizio, in condizioni normali non sbagli neanche a scrivere la formazione perdendo, esatto, 3-0 a tavolino la prima, bravo, giornata. Credo che sia emblematico, certo, questa cosa. Quindi arrivi, la Roma arriva a questa partita in una situazione, io devo dire che non ho, a memoria di posto, io non ricordo un inizio di stagione così. Non ricordo la Roma in queste condizioni. Abbiamo avuto presidenti reclusi a Regina Coeli, intendiamoci, però una Roma così io non la ricordo. Ma quindi Friedkin stanno un po' sbagliando, nel senso che noi abbiamo elogiato nei giorni scorsi il loro low profile, il fatto di essere entrati senza fare proclami, l'idea di grande concretezza nel cominciare a lavorare partendo probabilmente dalle cose che servono, e quindi si parte, soprattutto per un club che perde tanti soldi come la Roma, si parte dalle questioni societarie, posto che poi il calcio è quella cosa per cui i risultati si misurano in campo. Loro stanno cominciando un lavoro, quindi le nostre aspettative sono, diciamo, del tifoso sono evidentemente diverse. Loro stanno cominciando un lavoro, credo che col senno del poi si possa dire che non avessero preparato l'arrivo molto minuziosamente, nel senso che si sono preoccupati dell'affare economico e non di quello più strettamente tecnico. Quindi lentamente stanno mettendo mano a una squadra che ovviamente si porta dentro una partita importante come quella di questa sera tutte e quattro le cose che ci siamo raccontati. Non ultima, anche quella della vicenda Dzeko, che è il calciatore che stasera avrà la fascia da capitano e che, sottolineo, avrebbe dovuto giocare con la Juve questa sera. Dunque, insomma, è una situazione del tutto anomala. Poi, insomma, se vuoi che ti dica anche una cosa che io mi porto dentro un po' da tifoso, io al netto di tutto quello che è successo, tu non gliel'avresti data? Io no. Perché no? Cioè, Dzeko è chiaro che ogni anno finisce sul mercato per questioni che non lo riguardano, nel senso che la Roma cerca sempre di privarsi di Dzeko per ragioni di bilancio. Questo è successo regolarmente negli ultimi 3 anni. Premesso che Dzeko prende 7 milioni e mezzo netti l'anno, quindi contratto rinnovato l'anno scorso, esatto, quindi detto che, come dire, si può far piacere tutto e il contrario di tutto con 7 milioni e mezzo, però devo dirti che se io sono il capitano della Roma, una fascia che è stata di Agostino Di Bartolomei, di Peppe Giannini, di Francesco Totti e Daniele De Rossi, io penso che un capitano che si senta capitano in quel particolare modo in cui dovrebbe sentirsi capitano della Roma, dica alla società: volete vendermi, lo capisco, non batto ciglio, vado ovunque tranne che alla Lazio e alla Juve. Il capitano della Roma che immagino io, Diego, evidentemente non è il capitano della Roma che immagino io. Molti mi hanno detto quando... credo sia un sacrificio esagerato da chiedere a Diego, sì, in questa situazione. Sette e mezzo è il prezzo di un fuoriclasse. Diego appartiene alla categoria dei fuoriclasse e si spiega il purtroppo di Pirlo, no? Purtroppo non gioca. Mi hanno ribattuto quello che stai dicendo tu, cioè che lui è il più forte giocatore che ha la Roma e quindi è lui che va alla fascia. Io penso che la fascia non vada al giocatore più forte. Sì. Ricordo, per fare cioè, tu dici la scelta, però doveva venire da lui, cioè era lui che doveva dire rinuncio alla fase capitano. Cioè, secondo me è un po' poco per degradarlo. Degradarlo è tanto. Faceva le smorfiette con Bonucci, faceva insomma, domenica a Verona o gliel'hanno chiesto o l'ha chiesto lui. Comunque non è andato in campo. Insomma, secondo me il capitano della Roma, per come la immagino io, la fascia la tiene in un altro modo. Probabilmente io vivo nella memoria, vivo nel ricordo, vivo in un'epoca che non esiste più, non lo so. Però, insomma, diciamo, aggiungo anche questo elemento di riflessione stasera. Adesso vediamo poi come reagirà Dzeko. Io non ho dubbi che reagirà bene, perché insomma, un professionista di quel livello, un fuoriclasse di quel livello, l'unico della Roma, guadagna peraltro 7 milioni e mezzo. Io credo che stasera farà di tutto per dimostrarci che quei 7 milioni e mezzo sono meritati e che è vero quello che noi pensiamo di lui, cioè che è un fuoriclasse. Ma io infatti non sto mettendo in discussione le caratteristiche tecniche, i piedi di Dzeko, sto mettendo in discussione il fatto che la fascia di capitano in genere a Roma, in una città un po' speciale per il calcio, è più identitaria, Roma, va su altre... Ma insomma, questo comunque è uno degli argomenti di questa sera, che è pieno di argomenti sul fronte Roma, molto di più di quelli del fronte Io credo, Juve. Fabrizio, che se fosse andato in porto lo scambio, se Dzeko fosse volato verso Torino garantendo 16-17 milioni di euro... L'arrivo di Milik, Dzeko avrebbe reso un buon servizio, e non è lui che si è messo di traverso, ma alla fine avrebbe reso un buon servizio alla Roma in assoluto. Però capisco che il tifoso possa, che vive di quella doppia rivalità con Lazio e Juventus, possa coglierla in maniera differente. Io non dico che Dzeko debba dire, come hanno detto molti capitani della Roma, io non lascio Roma, io vivo a Roma. Lo capisco, un'altra cosa. Però il capitano della Roma dice: io alla Roma, alla Lazio, alla Juve non ci vado. Ma detto questo, diciamo anche una cosa sull'aspetto più strettamente, diciamo, tecnico della partita di questa sera. La Roma scende in campo con una formazione, se gli 11 annunciati ieri da Fonseca, anche in modo polemico, perché è chiaro che annunciando gli 11 ha voluto segnalare che ce li ha proprio contati. Io dico che gli 11 di questa sera, se hanno voglia di giocare per questo allenatore, sono 11 calciatori che probabilmente, tolto Santon, che però è uno che il mestiere suo lo fa sempre, sono 11 calciatori che possono fare una grande partita e mettere in difficoltà la Juve. Anche perché la Juve 11... non sappiamo che cos'è ancora, ne parlavamo anche prima con Marzanozzi. Perché la Juve non sappiamo che cos'è. Però gli 11 della Roma presi uno per uno, sono d'accordo. Insomma, alle spalle di stasera di Dzeko giocano Pedro e Mkhitaryan. Cioè, dico, giocano due calciatori di altissimo profilo in mezzo al campo, Veretout e Pellegrini. Insomma, è una squadra che secondo me stasera può giocare una buona partita se ne ha voglia, e naturalmente noi da questa cosa da stasera capiremo anche qual è il rapporto tra la squadra e l'allenatore, cioè quanto tengono i calciatori della Roma a Fonseca. O quanto invece quella prima chiamata ad Allegri possa avere un futuro e una chiamata magari un po' più sostanziosa nei prossimi giorni. Grazie Fabrizio. Ciao Fabrizio, presto. Grazie a voi, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Allora, ci sono un po' di cose da raccontare delle due partite che si stanno disputando. Intanto il Napoli continua a essere in vantaggio 1-0 sul Genoa, gol di Lozano al decimo minuto, ma si è fatto male Insigne, è uscito per un guaio muscolare al flessore della coscia sinistra, era abbastanza dolorante, al suo posto è entrato Elmas. Ricordate che gli infortuni sono un tema in questa stagione e soprattutto in questo avvio di campionato. Sempre 0-0 tra Crotone e Milan, partita che è come sviluppo tattico in questi primi 26 minuti saldamente in mano al Milan. che ha avuto tante occasioni ma senza Ibra, e quindi il titolo della prima mezz'ora può essere questo: fin qui non ha trovato rete, 26esimo 0-0, ma è un Milan che sta bene, sta giocando. Sì, sta giocando, mi sembra di vedere un buon Tonali, ha fatto già due o tre cose interessanti, si è collocato nella sua posizione incoraggiante prima mezz'ora di Tonali, poi è chiaro che giochi, ma la differenza di Ibrahimovic è evidente, insomma. Allora, ci fermiamo, quando torniamo Varanato. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati. VAR Anatomy con Luca Marelli. Eccoci al tradizionale appuntamento con VAR Anatomy. Luca Marelli, ciao, buon pomeriggio. Ciao Luca. Buon pomeriggio a voi, ciao a tutti. Allora, mi sembra con in corso da circa mezz'ora Crotone-Milan e Napoli-Genoa che sia confermata la tendenza di questo inizio di campionato e quindi una maggior uniformità, attenzione ai fischi, si arbitra quasi più all'europea. Abbiamo visto ieri sera, Luca, a San Siro, Inter-Fiorentina, con rigore tolto a Lautaro Martinez, la prima on-field review dell'anno. C'è qualche problema evidentemente di collegamento con Luca Marelli, che adesso riagganciamo. Ecco qui, Luca. Eccomi. Vai. Sì, no, è stata una field review classica, nel senso che anche l'anno scorso questo calcio di rigore sarebbe stato rivisto alla field review, perché è stato un abbaglio. In realtà in presa diretta, bene o male, tutti eravamo convinti del fatto che ci fosse un fallo da rigore. In realtà, vedendo le immagini, ci siamo accorti che Cáceres ha nettamente anticipato Lautaro Martinez, che poi ha calciato lui la gamba, il polpaccio sinistro di Cáceres. Bene, mi aspettavo, una volta viste le immagini, un on-field review un pochino più veloce, ma va bene così. L'importante è che si sia ripristinata la verità del campo. Fammi un piccolissimo flash su Crotone-Milan. L'episodio su Salemakers è un episodio che avrebbe anche potuto portare al calcio di rigore, ma non è un episodio da VAR. Ecco, descriviamolo qualitativo. Luca, così spieghiamo che cosa è successo. Sì, Salemakers ha allungato il pallone, il difensore del Crotone si è frapposto non soltanto col corpo ma anche allungando entrambe le braccia. Salemakers è andato addosso, è un contatto che poteva portare a un calcio di rigore, ma certamente non a un on-field review. E quindi, insomma, il direttore di gara ha preferito invece far correre il direttore di gara che è Pairetto con Mariani al VAR. C'è stata anche qualche timida protesta sempre in Crotone-Milan per un tocco di braccio sugli sviluppi di un calcio d'angolo, un traversone con palla che ha picchiato, c'erano due giocatori, un difensore e un attaccante abbastanza vicini, ma abbiamo capito in questo momento c'è maggiore attenzione per evitare il moltiplicarsi dei rigori. Guarda, questo questa è una cosa importante che dicevi tu, Luca, settimana scorsa, cioè i giocatori pian piano stanno cominciando a capire che il vento è cambiato. Ad esempio, un'inezia, pochi istanti fa c'è stata una punizione di Çalhanoğlu, la barriera che salta, la palla che finisce sul braccio di un difensore, non c'è stato uno che abbia alzato il dito dicendo scusate, ma esatto. Quindi questo è molto importante. Sì, a sottolineare questo vorrei segnalare anche il comportamento di Salemakers, che una volta che ha notato il mancato fischio di Pairetto si è alzato subito, senza neanche protestare. Questo va bene, perché vuol dire che anche negli episodi dubbi i giocatori hanno capito che quest'anno di rigori ce ne saranno pochi. E questo è fondamentale, perché questo sta tornando ad essere un campionato di calcio. Ieri Cagliari-Lazio, massa arbitro, Chiffi al VAR, solo 21 falli fischiati, solo 7 nel primo tempo. Non è stata una partita agonisticamente accesissima. Questo, insomma, chi l'ha visto lo può testimoniare, ma questi sono numeri bassi, Luca. Sì, sono numeri bassi. Da Massa ci si li aspetta. Massa è un arbitro che fischia molto poco in generale. non è un caso che è l'unico arbitro insieme a Guida in questo momento attività, chiaramente togliendo Orsato, che ha arbitrato in Champions League, perciò il suo metro è già abbastanza europeo. Ecco, però ecco, Massa ha iniziato bene, perché c'era bisogno che si ricominciasse, che ricominci ad arbitrare, perché viene da una stagione non negativa, ma nella quale non è mai stato scelto per un big match, e questo deve essere l'obiettivo di Massa per quest'anno. Torino-Atalanta, Irrati arbitro, Guida al VAR. Mi incuriosisce quello che è accaduto intorno al 40esimo del primo tempo, con una robusta gomitata, uso un eufemismo, di Zaza a Sutalo, punita con il cartellino giallo da Irrati. Non c'è stata alcuna richiesta da parte del VAR di un field review. Però io l'ho definita robusta come gomitata, perché è stata, sì, diciamo, ben oltre semplicemente il prendere posizione. Allora proviamo un po' a capire quali sono i parametri per distinguere il giallo e il rosso in occasioni come queste, sempre sperando che poi ci sia uniformità, perché sono anche falli molto televisivi che possono condizionare nella diversa valutazione le partite e i campionati. Sì, guarda, rivedendo le immagini si capisce che quello di Zaza è un'imprudenza evidente, ma non c'è nessuna volontà di colpire violentemente l'avversario da un particolare. Il particolare è la mano destra. Nel caso in cui un giocatore volesse compiere un atto violento nei confronti di un avversario, in circostanze di questo genere solitamente chiude il pugno perché dà più forza. In questo caso invece ha allargato il braccio, in modo molto imprudente, il cartellino giallo è assolutamente legittimo, ma con la mano aperta. Cioè, questo significa, solitamente, naturalmente non dobbiamo prenderlo come oro colato per tutte le circostanze di questo genere, ma significa in questo caso che non avesse intenzione di colpire violentemente l'avversario, o al collo, al volto, dove. Quello che ha dato un po' fastidio, te lo dico vedendo le immagini, è la protesta di Zaza, che obiettivamente era completamente fuori contesto. Sì, si lamentava per il cartellino giallo preso. Abbiamo visto qualcosa di molto interessante in Inghilterra, invece, in Premier League, partita vinta dallo Manchester United a Brighton per 3-2, partita vinta veramente sul filo di rana, anche oltre, perché è stato decisivo un calcio di rigore concesso dal direttore di gara dopo il fischio finale. Sull'ultima azione c'era stato un tocco di mano dentro l'area del Brighton, l'arbitro ha fischiato la fine della partita, poi è stato richiamato mentre si stavano salutando tutti togliendo le magliette, ha detto fermi tutti, è andato al VAR e ha concesso il calcio di rigore. È tutto assolutamente in linea con quello che è scritto nel protocollo. Però ci aiuti, Luca, a capire che cosa succede in questi frangenti, che cosa prevede la norma, quindi parliamo del finale del primo tempo, parliamo del finale di partita. Sì, allora è previsto il protocollo, l'arbitro può essere richiamato a un field review fino al momento in cui abbandona il campo di gioco, che non è soltanto il terreno di gioco ma anche il campo di destinazione. Per semplificare, una volta che l'arbitro passa il confine tra il campo di gioco e gli spogliatoi, in quel momento non può essere più chiamato. Quindi quando entra nel tunnel l'arbitro. Esattamente. Ma fino a quando l'arbitro si trova sul terreno di gioco o nel campo di destinazione, cioè quella parte che circonda il terreno di gioco, fino a quel momento può essere chiamato nel field review e tornare indietro, cioè tornare all'ultimo episodio che è stato contestato. In questo caso il fallo di mano, che tra l'altro era abbastanza evidente, fallo di mano assolutamente volontario, con il braccio ben oltre l'altezza della spalla, è staccato dal corpo, poco da discutere oggettivamente sul tocco di mano, fino a quel momento può essere richiamato e giustamente è stato assegnato il calcio di rigore. Subito dopo la partita è stata ritenuta conclusa. Perché in quel momento credo poi non esista neanche la possibilità eventualmente di una ribattuta. Assolutamente no, nel caso in cui il portiere avesse respinto il pallone, oppure il pallone fosse finito sui pali o sulla traversa, in quel momento stesso sarebbe finita la partita. Quindi nessun altro può toccare il pallone se l'arbitro aveva fischiato la fine e poi ha concesso il calcio di rigore richiamato dal VAR. È un po' come un calcio di rigore dopo i supplementari. O un fallo tecnico nel basket. Nel basket, una volta che il tiro viene segnato, viene convalidato il punto, se viene sbagliato invece si riprende come si doveva riprendere precedentemente. Intanto gli inglesi, che l'anno scorso erano allergici al VAR, si sono allineati, perché cominciano a vedersi le review anche in Premier League. Sì, beh, l'IFAB credo che nell'ultima piccola modifica del protocollo sia stato molto chiaro, l'avevamo già detto in questa trasmissione, nel periodo di marzo, dopo la riunione dell'IFA, avevamo detto che non ci sarebbero state modifiche del protocollo, ma semplicemente era stata aggiunta una specifica che era diretta alla Premier League. L'abbiamo visto perché in queste prime giornate finalmente gli inglesi non stanno più facendo come vogliono loro, ma si sono adeguati al protocollo VAR che è in uso in tutto il mondo. E così doveva essere. Tutti molto incoraggianti in nome di un'uniformità arbitrale nel calcio europeo. Quindi avvio di stagione che insomma ci fa sperare bene. Speriamo, grazie Luca. Velocissimo, 10 secondi. Io sono contentissimo di questo inizio di stagione perché ho visto anche gli arbitri dirigere molto bene. A mio parere la riunificazione della CAN sta facendo vedere i risultati già da adesso, perché si vede che gli arbitri entrano sempre al massimo della concentrazione perché sanno che c'è concorrenza vera. Abbiamo visto anche Orsato in Serie B a fare Monza Spal, ma in quel caso si trattava insomma di una turnazione necessaria anche per altri impegni di Orsato. Grazie Luca. Ciao Luca, presto. A voi, buon lavoro. Ciao. Grazie a Luca Marelli, appuntamento con VAR Anatomy settimana prossima nel consueto orario delle 18.35. Proviamo a fare un po' riepilogo di quello che sta accadendo sui due campi dove si sta giocando. 1-0 per il Napoli sul Genoa, siamo al 41esimo minuto che sta scadendo proprio in questi istanti. Napoli che è andato vicino al raddoppio con Osimhen dopo il gol realizzato da Lozano, il decimo di questa prima frazione di gioco, ma anche il Genoa insomma comincia piano piano timidamente ad affacciarsi dalle parti dei Meret, che è stato schierato questa sera da Gattuso bel al Napoli, posto di Ospina. Bel Napoli. Ha perso Insigne, ricordiamo, per infortunio muscolare. Al suo posto è entrato Elmas. 0-0 invece tra Crotone e Milan. Abbiamo raccontato di un ottimo Milan nei primi 20-25 minuti, con tante occasioni di Çalhanoğlu, di Brian Diaz, un Milan che ha spinto tanto e ha reso difficile al Crotone l'uscita dalla propria metà campo. Negli ultimi minuti la partita si è un po' incattivita. Sì, è vero, però comunque ti dà la sensazione di un Milan che non fa male, cioè che comunque costruisce, comunque anche in buone condizioni, però come sempre quando manca quello che è a casa a vedere la partita con il numero 11 con il Covid in questo momento, insomma è un Milan che comunque non ha grande peso specifico, a differenza del Napoli che invece lì davanti ogni volta che affonda ti fa male. Attacca ancora il Milan, c'è un calcio di punizione che raccontiamo prima del traffico. Siamo al 42esimo minuto, 0-0 dunque Crotone-Milan, calcio di punizione a una distanza di circa una trentina di metri, leggermente spostata sulla destra rispetto alla porta difesa da Cordas, portiere del Crotone. C'è Çalhanoğlu che è pronto al traversone, palla che arriva dentro l'area di rigore, viene spizzata di testa ma si perde sul fondo. In precedenza Kier aveva addirittura colpito la traversa, ma poi l'azione era stata annullata per un fallo dello stesso Kier sugli sviluppi di un calcio d'angolo. 0-0 dunque a Crotone, 1-0 per il Napoli sul Genoa. Ci fermiamo, ultima pausa per il traffico e ci tuffiamo nel mondiale ciclismo. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Qui dopo un anno complicatissimo, ormai vede la luce brillante in fondo al tunnel, vede la luce dell'arcobaleno, si lascia andare, Julian Alaphilippe, Lulu, il moschettiere, in trionfo a Imola con la stoccata più bella della sua carriera. Che bella maglia, che bella maglia di campione del mondo. Non vinceva dal 1997 la Francia un titolo mondiale di ciclismo maschile, dunque dopo 23 anni Julian Alaphilippe ha interrotto questo digiuno. Lo ha fatto a Imola in una domenica che vede sul podio anche Van Aert e Hirschi, dunque podio anche per Belgio e Svizzera, vede Damiano Caruso primo italiano decimo. È un sottile senso di delusione, adesso ne parliamo. Vi raccontiamo anche che negli ultimi istanti del primo tempo di Crotone è stato assegnato un calcio di rigore al Milan per uno sgambetto di Marrone su Rebic in azione di contropiede del Milan. Fischio però che in questo momento è sottoposto a un silent check, una revisione perché c'è da capire se Rebic non si è aggiustato il pallone prima col braccio, prima di entrare in area di rigore. Se c'era Luca Marelli che ha dato via da pochi istanti, potevamo essere più chiari, però mi sembra che l'abbia colpito con la spalla, sebbene con il braccio abbastanza largo. Sul fallo penso non ci siano grandi discussioni, no, fallo, nel senso, mi fallo è sembrato nettissimo. sgambetto nettissimo su Rebic, che era saltato l'uomo, allarga il braccio, ma mi sembra che la palla se la metta a terra con la spalla. Addomestica un pallone che arriva da almeno una quarantina di metri. Sì. Adesso vedremo se sarà confermato il calcio di rigore. Siamo ancora fermi. Nella realtà comincio a salutare Pier Augusto Stagi. Ciao Pier. Ciao. Ciao, buonasera. Ti daremo in diretta le notizie e gli aggiornamenti sul Milan, che ti sta particolarmente caro. Raccontaci se Alaphilippe è il vincitore giusto e degno di un mondiale bellissimo per la qualità dei corridori che sono arrivati a giocarselo negli ultimi 20 chilometri. Assolutamente sì, erano due gli uomini, non sapevamo chi sarebbe arrivato primo e chi sarebbe arrivato secondo, erano due facce della stessa medaglia, ma su questa medaglia ha scritto il proprio nome, il nome e il cognome Julian Alaphilippe. Era l'uomo più in condizione insieme a Wout van Aert, perché credo che il belga questa sera si rimprovererà una grave colpa, secondo me, a livello tattico, perché ha avuto il match point con l'azione di Vincenzo Nibali. Vincenzo scatta, è stato francobollato immediatamente da Urán e Landa, Wout van Aert era rientrato, quattro hanno guadagnato 70-80 metri, esattamente il vantaggio che poi avrebbe creato immediatamente Alaphilippe con lo scatto successivo, e non ne ha approfittato, non ha dato man forte a questa azione, ha lasciato fare solo a Vincenzo, che poi ha avuto una collaborazione veramente molto ridotta. Ed è stato un errore, perché lui era l'uomo chiaramente più veloce. Se avesse dato una mano a Nibali, Urán e Landa, sarebbero probabilmente arrivati loro quattro. Nibali probabilmente sarebbe arrivato anche quarto, diciamolo, però sarebbe stato un altro mondiale, perché saremmo stati più protagonisti, perché Vincenzo avrebbe portato a casa un onorevole piazzamento. Invece ci resta la mare in bocca per un decimo posto e basta da parte di Caruso, un quindicesimo di Vincenzo. E un Wout van Aert che ha veramente gettato nel buttato via la grande occasione, anche perché ha avuto l'occasione, proprio il pallone andava accompagnato in rete e non l'ha fatto, inspiegabilmente. Intanto che sia segnato il calcio di rigore, che dunque è stato confermato, 1-0 per il Milan, siamo negli ultimi istanti del recupero che verrà fisiologicamente prolungato, perché c'è stata una lunga verifica al VAR, anche in assenza però del direttore di gara. Poi Frank Essie ha realizzato il calcio di rigore, quindi Crotone 0 Milan 1, quando sta per concludersi il primo tempo. Invece alla fine abbiamo fatto i comprimari. Sì, abbiamo fatto, ma una delle cose più divertenti dei mondiali di ciclismo sono le pagelle del giorno dopo. Che voto si può dare alla nazione italiana? Guarda, io li do 6. 6, perché comunque siamo partiti con quello che avevamo, pochino. Non avevamo Nibali in grande condizione, l'ha detto, l'ha ripetuto, anche perché comunque a 35 anni non sappiamo se alla sua età potrà mai tornare ad un certo livello. Non voglio essere così funesto, però a 35 anni, ricordiamoci che a 32 moltissimi corridori sono già pensionati. Lui è ancora lì che lotta, ancora diciamo con l'elite del ciclismo mondiale. Gli altri erano degli ottimi comprimari e siamo stati dei comprimari, cioè Damiano Caruso, un uomo alla spalla ideale, il decimo al tour, decimo oggi. Alberto Pezzol, ecco, forse qualcosina di più poteva fare lui, perché a fondo resistenza, uno che ha vinto il Giro delle Fiandre, forse qualcosa di più poteva fare. Diego Lissi lo sappiamo perfettamente, ormai non è più una novità, è un corridore che va molto bene fino ai 200 km, poi gli manca i restanti 50 e 60. Gli altri, come ad esempio Masnad e Baggioli, erano due esordienti. Baggioli tra l'altro c'ha 21 anni, primo mondiale, più giovane dai tempi di Beppe Saronti, in maglia azzurra. Non potevamo pretendere di più da questa nazionale. I grandi sconfitti sono il Belgio in primis, l'Olanda, cioè la Spagna. Queste sono le grandi sconfitte, perché avevano diverse alternative, avevano molte punte, e noi abbiamo schierato in casa, perché comunque ricordiamo che doveva essere in Svizzera, sì, si correva da noi. Imola e l'Emilia Romagna ha salvato il mondiale, e lo sport mondiale da Bach, presidente del CIO, presente qui a Imola, al presidente del CONI Malagò, al presidente dell'UCI Davide Lapartian, hanno tutti fatti i complimenti agli italiani perché hanno salvato una rassegna irritata che se no non sarebbe stata niente. No, era destinata a essere cancellata. Grazie Pier Augusto. Ciao Pier. Grazie a voi, un abbraccio. Ciao ciao, grazie Pier Augusto. Finale di primo tempo a Crotone e a Napoli. Il Milan è dunque in vantaggio 1-0, la rete di Chessy su calcio di rigore al 47esimo, il Napoli è in vantaggio 1-0, il gol di Lozano al decimo, sempre del primo tempo. C'è da vivere insieme ancora tutto il secondo tempo, che vi verrà raccontato all'interno dei notiziari di Radio 24. Io mi fermo qui, ringrazio Edoardo Lavezzari in redazione, Paolo Corleoni, Valerio Bernardi che si sono alternati in regia. Ciao a te Carlo. Ciao Giovanni, grazie. Appuntamento con Tutti Convocati domani dopo il GR delle 14, mentre Tutti Convocati Weekend con me torna domenica prossima in diretta alle 17. Ciao. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ciao Radio 24. Saluti! Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su aruba.it